Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo del settore delle costruzioni, perché oggi l'ANCE, che riunisce il maggior numero di imprese dell'edilizia in questo paese, oltre 20.000 imprese, edilizia che continua a rappresentare l'11% del nostro PIL, ha presentato l'osservatorio annuale sull'andamento delle costruzioni. Devo dire che è uno di quei settori che lamentano la ripresa mancata, nel senso che altri settori si stanno riprendendo, non le costruzioni, ed è una mancanza all'appello pesantissima, appunto per il ruolo che ha nel comporre il PIL italiano. Più 0,2% gli investimenti nel 2017, quindi un'inezia. Tra l'altro, forse il 2018, secondo le previsioni del ANCE, potrebbe andare un po' meglio, con un incremento previsto dell'1,5%, ma in questo investimento il dato aggregato vuol dire in realtà un aumento dello 0,2% degli investimenti in opere pubbliche, dello 0,5% nella riqualificazione, e invece un calo dell'1,5% per gli investimenti in nuove abitazioni. Anche alla luce di questi dati Istat, la produzione ha fatto comunque meno 0,3% nel settore sempre costruzioni. Lieve aumento degli occupati, ma dato che non trovo conferme nei risultati delle casse dell'edilizia, che registrano invece ancora riduzione nelle ore lavorate e nel numero dei lavoratori iscritti. E poi l'ANCE fa notare che le manovre del 2016-2017 hanno stanziato sì per le opere pubbliche 100 miliardi di euro in 15 anni, ma è il solito problema: tu fai lo stanzi in manovra, poi il CIPE non te lo sblocca, non si sbloccano i soldi, quindi di 100 miliardi stanziati in 15 anni, segnala il presidente dell'ANCE, solo poche centinaia di milioni di euro sono state spese fino adesso. La montagna partorisce di nuovo il topolino. Ne parleremo direttamente col presidente dell'ANCE per capire come mai, anche perché questo è un tema molto ambiguo sul fronte elettorale e politico, perché se tu metti a bilancio 100 miliardi in 15 anni, dai un messaggio politico di credere negli investimenti e nelle infrastrutture. Se poi però quelli che sblocchi sono poche centinaia di milioni, questo poi non si sa, ma il settore non decolla. Ecco perché ci vorrebbe anche una forte corrispondenza tra quanto viene messo in finanziaria e annunciato e quello che poi effettivamente viene speso. Parleremo di questo, dicevo in apertura. Nella seconda ora del programma invece oggi è stato presentato dal Check Up Mezzogiorno e Confindustria nonché SRM, che è il Centro Studi del Gruppo Intesa San Paolo, appunto una visione complessiva dello stato di salute del nostro Mezzogiorno. È lì che il presidente di Confindustria Boccia ha detto: attenzione, altro che pensioni, è la questione giovani, soprattutto al sud, quella che rischia di essere il detonatore del futuro. Se vogliamo risolvere dando le pensioni ad altri un contentino ai giovani, siamo sulla strada sbagliata. Le generazioni passate dovrebbero essere più generose, ora che cominciano a pensare ai loro figli. Questo è all'interno appunto del rapporto sul nostro Mezzogiorno. Per quello che riguarda la borsa, segnalo che oggi Milano fa più 0,35%, Parigi più 0,66%, Francoforte più 0,20%, Londra più 0,50%. E ancora il Dow Jones più 0,13%. Sui titoli faccio notare che Saipem più 1,5%, Poste più 1,1%, Buzzi più 0,90% come Mediaset e Brembo. Poste meno 1,20%, Saipem meno 1,5% e Buzzi dice meno 0,90%. Bene invece Ferrari più 3,13%, ST Microelectronics più 2,60%, Terna più 1,60%, Snam più 1,5%, Luxottica più 1,30%, Atlantia più 1,20%, Banca Generali più 1% come Prismian. l'euro su dollaro a quota 1,15, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Notizie in breve, come sempre, di carattere internazionale in apertura, e allora partiamo subito dal fronte notizie dal fronte americano, perché Wall Street, al di là del dato di oggi più 0,20%, continua a mantenersi su livelli molto alti, tant'è che oggi sia lo Standard & Poor's che il Nasdaq hanno aggiornato i propri record storici, spinti soprattutto dai bilanci trimestrali. Tra l'altro, delle 53 aziende, gruppi quotati dello Standard & Poor's 500 che hanno comunicato i propri conti fino ad ora, il 77% ha dimostrato utili sopra le previsioni del mercato e i due terzi ricavi migliori delle attese. Tra queste c'è anche Morgan Stanley, che ha fatto anche meglio dell'arrivare Goldman Sachs, ha chiuso il periodo aprile-giugno con un utile in aumento a 1,76 miliardi di dollari e ricavi saliti a 9 miliardi e mezzo. La Cina invece ha aumentato a maggio di 10 miliardi di dollari lo stock di titoli del tesoro americano nel suo portafoglio, ed è il quarto mese di fila, e porta così la quota di debito americano in mani cinesi a 1.102 miliardi. Tra l'altro, il primo creditore però degli Stati Uniti è il Giappone, che ha a quota 1.111 miliardi, ha aumentato la sua esposizione verso gli Stati Uniti di altri 4 miliardi. Tra l'altro, sempre dagli Stati Uniti arriva una notizia interessante che è contrapposta a quella che abbiamo dato noi sul nostro settore delle costruzioni, perché le costruzioni di case nuove negli Stati Uniti sono salite in giugno dell'8,3%, è l'aumento maggiore degli ultimi 4 mesi, è un dato decisamente superiore rispetto alle attese degli analisti. E visto che le citavamo, citiamo anche complessivamente i dati della produzione edilizia nell'area euro, che ha fatto un calo, questo a maggio, dello 0,7%. L'Italia solo sul mese di maggio è andata in controtendenza, più 2,7%, ma aveva avuto un calo molto più forte ad aprile rispetto alla media, meno 4%. Sempre di edilizia, ma su un altro fronte, ha parlato oggi il presidente dell'INPS Tito Boeri. Ha detto che c'è l'ok al piano di vendita di immobili dell'INPS, che valgono più o meno intorno a 2 miliardi e mezzo di valore, un piano da sviluppare in circa 5 anni. E poi Boeri ha fatto notare e ha toccato il tema delle pensioni pagate all'estero dall'INPS. Nel complesso, su 160 paesi, l'INPS ha pagato l'anno scorso 373.000 pensioni all'estero, tutto per un valore poco superiore a 1 miliardo di euro. La cosa interessante o strana non è questa, è un'altra, perché Boeri ha fatto notare che più di un terzo di queste pensioni pagate a giugno del 2017 hanno periodi di contribuzione in Italia inferiori a 3 anni. Il 70% è inferiore ai 6 anni e l'83% ai 10 anni, quindi hanno durate contributive molto basse. Tra l'altro, nel 2017, con il provvedimento sulle quattordicesime, si è ampliata in modo considerevole anche la platea di chi ha diritto alla quattordicesima, pur essendo residente all'estero, più 131%. Malgrado i limiti posti dalla normativa nazionale e internazionale, si segnala che annualmente vengono erogate a soggetti residenti all'estero integrazioni al trattamento minimo e maggiorazioni sociali che costituiscono un'uscita per lo Stato italiano che non rientra nel circuito economico del nostro Paese sotto forma di consumi. Quindi noi eroghiamo queste prestazioni di natura assistenziale a fronte di periodi contributivi molto brevi versati in Italia e lo Stato non ottiene un ritorno da questi in termini di, per esempio, imposizione sui consumi. D'altra parte, i titolari di tali trattamenti che risiedono all'estero, in linea di massima, non contribuiscono in nessun modo alla spesa pubblica del Paese, in quanto non sono soggetti a tassazione in Italia, né diretta né indiretta. Qual è l'importo totale di queste prestazioni di natura, diciamo, assistenziale versate a persone che hanno periodi contributivi molto brevi in Italia? Si tratta di circa 80, nel 2016 si trattava di circa 80 milioni. Questa cifra è ulteriormente aumentata nel 2017 con il provvedimento sulle quattordicesime, perché in effetti le quattordicesime hanno ampliato la platea soprattutto in modo molto considerevole tra appunto i residenti all'estero, perché la diciamo platea dei residenti all'estero che riceve la quattordicesima è aumentata del 131%. E Boeri ha insistito, insomma, le prestazioni assistenziali pagate all'estero vanno a ridurre gli oneri di spesa sociale di altri paesi e quindi è come se il nostro paese operasse un trasferimento verso altri sostanzialmente. C'è stato un incremento del 131% del numero dei beneficiari. Quindi quello che accade in verità è che queste prestazioni assistenziali che noi concediamo a queste persone vanno di fatto a ridurre gli oneri della spesa sociale di questi altri paesi, perché devono versare meno in questi redditi minimi garantiti. Quindi è come se il nostro paese operasse un trasferimento ad altri paesi. Ancora per quello che riguarda il tema del nostro mezzogiorno, mi scrivono alcuni ascoltatori al 349-238-6666 e ne parliamo nella seconda ora. C'è tutto il rapporto di Confindustria, la disoccupazione dei giovani è doppia al mezzogiorno rispetto al centro-nord, ma faccio notare anche che l'utilizzo degli incentivi pubblici che vanno sotto il nome di Industria 4.0, quindi iperammortamento e superammortamento, è molto più basso al sud rispetto al centro-nord ed è quello che sta generando una dinamica positiva di investimenti nel paese. Comunque oggi il rapporto si è concentrato soprattutto su disoccupazione e disoccupazione giovanile, ne parleremo più avanti. Tra l'altro il Presidente Confindustria oltre ad aver detto che più che alle pensioni bisogna pensare al detonatore giovani, ha anche commentato la situazione attuale con una frase, ha detto Boccia: ho la sensazione che siamo alla ricreazione, abbiamo svoltato, siamo usciti dall'emergenza, in realtà siamo ancora in una fase di transizione e ci vorranno ancora sacrifici, non ci sono tesoretti da dividere, ma ancora sacrifici da fare per dare certezza al futuro. Restando al sud, occupiamoci di Bagnoli, perché oggi il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha scritto un Twitter in cui ha annunciato che è stato firmato l'accordo con Comune e Regione sul futuro di Bagnoli. Un bel risultato. De Vincenti, come ministro del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, ha elencato anche alcune delle fasi che stanno portando e porteranno alla rinascita, sì, ci auguriamo, di Bagnoli. La bonifica e la rimozione integrale è stata colmata. O meglio, si è iniziata l'attività di bonifica e risanato per esempio la parte Areline Nord, come appunto ha ricordato De Vincenti. A parte quelli che hanno, con cui abbiamo sistemato l'Arenile Nord, ma poi in questo momento sono in corso i lavori di rimozione dell'Eternit dell'amianto e poi la cabina di regia del 27 luglio definirà il cronoprogramma delle bonifiche sulla base delle caratterizzazioni che abbiamo fatto, delle bonifiche integrali, come dicevo prima. A quel punto sapremo anche il cronoprogramma dei cantieri per le bonifiche. E devo dire che un plauso all'attività del governo è arrivato anche dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris, appunto in seguito alla firma sull'accordo su Bagnoli fatta da governo e regione Campania, il sindaco di Napoli ha detto: riconosco l'impegno del governo per la bonifica. Dagli incontri che abbiamo avuto mi pare di capire che entro l'anno si possa procedere alla gara per la bonifica, quindi questo è un risultato straordinariamente rilevante e oserei dire storico per il nostro territorio. Bonifica integrale, rimozione della colmata. Quindi se questo cronoprogramma viene rispettato, ritengo che il governo lo rispetterà e noi saremo sul pezzo sempre, nei primi mesi del 2018 si può ragionare con l'inizio effettivo della bonifica e non più solo messa in sicurezza come è avvenuto sinora. Poi ci tengo a precisare che oltre alla bonifica c'è una condivisione piena del nostro progetto di rigenerazione urbana. Recupero della balneazione, recupero della linea di costa, la spiaggia recuperata ai cittadini a fruizione collettiva, arretramento di tutti gli insediamenti abusivi, ricostituzione del borgo marinaro di Coroglio, l'archeologia industriale, un'edilizia che sia compatibile con quel tipo di scenario, il parco, sviluppo, impresa, insomma, è quello che noi avevamo chiesto sin dal primo momento. Quindi c'è piena soddisfazione perché non c'è solo la bonifica che già sarebbe stato fondamentale, c'è il progetto di rigenerazione urbana, mobilità, infrastrutture, c'è un progetto di città in una città e quindi è veramente la Bagnoli che verrà e noi siamo soddisfatti e avvertiamo questa giornata come una giornata storica. Ancora una notizia che riguarda l'Italia invece, perché oggi il ministro dei trasporti Delrio in audizione alla Camera ha detto che l'Italia pensiamo sia un valore dal punto di vista industriale per il paese e abbia ancora potenzialità di sviluppo a patto che l'azienda venga venduta intera e non venga assolutamente frazionata e spezzettata. Ha detto Delrio: l'Italia non può vendere rotte, asset e settore della manutenzione, va tenuta intera, ha una massa critica che può consentire di recuperare gli squilibri. E poi ha aggiunto: va cercata la disponibilità di un vero investitore, sottintendendo invece non di qualcuno che se ne vuole solo approfittare e comprare a prezzi di saldo. Noi pensiamo che Alitalia sia un valore da un punto di vista industriale per il paese, quindi sia un grande valore e abbia ancora potenzialità di sviluppo. Ha potenzialità di sviluppo a patto che l'azienda non venga, questa è la mia personale opinione, ma anche l'opinione, diciamo, la prima scelta del governo. Io penso che l'azienda non debba essere assolutamente frazionata o spezzettata. Quindi Alitalia non può vendere rotte, vendere asset, vendere il settore manutenzione. Alitalia va tenuta intera perché ha comunque una massa critica che è adeguatamente accompagnata da un investitore che creda nello sviluppo del trasporto aereo, è una massa critica che può consentire di recuperare gli squilibri che ha. La cosa importante è che gli investitori credano davvero nel progetto di sviluppo di Alitalia, nel progetto di sviluppo delle connessioni nel paese e nel fatto che l'attrattività e il brand del paese è in crescita, non è in diminuzione. Quindi la cosa che va valutata è appunto la disponibilità di un vero investitore, che sia un investitore o un partner, questo lo decideranno gli elementi di fatto, diciamo così, ma che vi sia una disponibilità di un vero investitore, perché noi crediamo ancora oggi che l'azienda abbia una potenzialità importante. E quindi la nostra idea è che, corrette le strutture e corrette le strategie, Alitalia possa davvero diventare un fattore di sviluppo e di ripresa anche importante per alcuni territori. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. No, il sogno non è parlare più di Alitalia, questo insomma non capiterà mai. E dico a chi mi scrive invece: perché avete fatto sentire De Magistris, il comune non c'entra niente, l'accordo è governo e regione Campania, e l'abbiamo detto più volte. Era interessante però, a mio avviso giornalisticamente, ascoltare De Magistris che riconosce, visto che il suo rapporto col governo è molto critico, a torto o ragione non mi interessa, ma se anche il sindaco riconosce che c'è stato un impegno del governo, oltre che della regione, per la bonifica dell'area, secondo me fa quasi più notizia questa di altre, perché se c'è una persona critica con l'attività del governo e anche della regione è proprio De Magistris, anche per motivi di colore politico. No, il mio sogno è un altro, e per questo abbiamo rimesso, diciamo, Martin Luther King. È arrivare e vivere in un paese in cui io capisco esattamente che se c'è una manovra finanziaria, una legge di stabilità che, o un'iniziativa del governo che va a destinare 10 miliardi poni agli investimenti infrastrutturali, quei soldi io me li ritrovo poi negli investimenti stessi. Quindi è ubriaco Barisoni. No, non più del solito, perché in questo paese, ma questo va avanti da quando io conduco questo programma, quindi sono almeno 19 anni, tu hai l'annuncio sulle opere infrastrutturali e tutti a dire: ah, benissimo, adesso arriveranno 15 miliardi, 10 miliardi, 20 miliardi. Poi tutto si bloccava storicamente nel CIPE, e il CIPE doveva dare via libera. È come se io ti dicessi ti darò 100.000 euro, poi vieni all'incasso, dicono: intanto per ora te ne do 1.000, perché questa è l'autorizzazione che ho avuto. Tu politicamente ti sei venduto l'investimento da decine di miliardi, ma effettivamente nel territorio si vede poco o le briciole. Perché lo dico? Perché l'ANCE oggi, l'Associazione Nazionale dei Costruttori, sono 20.000 imprese del settore, fa notare come le manovre del 2016 e 2017 abbiano stanziato per le opere pubbliche in questo paese 100 miliardi di euro in 15 anni, che tu dici non sono tanti, ma insomma sono neanche pochi, siamo intorno ai 7 miliardi l'anno di investimenti pubblici. Il problema, che lo sostiene il presidente del ANCE Giuliano Campana, presentando oggi l'osservatorio dell'associazione, che solo poche centinaia di milioni di euro sono stati spesi finora. Ed è sempre quello il giochino, per cui noi poi perdiamo di vista cosa succede a questi soldi. Abbiamo dato ampia enfasi, quindi faccio anche autocritica, all'iniziativa del governo, qualunque sia il suo colore politico. Bene, sembra che finalmente investiamo e poi gli investimenti non partono. Presidente Giuliano Campana, buonasera. Buonasera a lei. No, non so se la sintesi sia troppo, diciamo così. Ha reso molto l'idea, è così. Allora, ma è vero che voi avete denunciato oggi che nonostante i 100 miliardi stanziati per 15 anni, quindi sì, avremmo dovuto vedere almeno 15 in due anni, sì, più o meno calcolati male, certo, ci sono solo i pochi centinaia di milioni di euro di investimenti, ma dov'è che si blocca il meccanismo? Perché allora mi verrebbe a chiedere alla classe politica: tu puoi fare questo annuncio solo quando si è sbloccato l'ultimo miglio, quello del CIPE di solito, prego. Ma guarda, lei ha detto le cose giuste e così è. Il problema dove si blocca? Beh, questo forse lo vorremmo sapere anche noi. Si blocca, a mio avviso, ma questo può essere un'idea sbagliata, ma io non credo, a mio avviso nelle pastoie burocratiche, che purtroppo sono quelle che attanagliano l'Italia, e quindi a noi poi ci piange il cuore quando vediamo le buche per le strade, quando vediamo le opere da farsi. Siamo all'ultimo posto come infrastrutture, abbiamo bisogno di infrastrutture, ci sono i soldi e non vengono spesi. E le imprese intanto più, cioè sono cose assurde. E però, mi scusi, adesso non voglio difendere il governo, ma non è che sia più facile annunciare, poi quando li devi tirare fuori ti vanno a deficit e quindi ti vanno sui conti pubblici, o è che anche le amministrazioni locali abbiano problemi poi di finanziamento, cioè di trasferimento risorse Stato enti locali? Sì, beh, anche questo sicuramente, poi questi problemi sono reali. Certamente che poi quando vengono trasferiti questi soldi poi localmente trovano difficoltà poi a riuscire a far partire gli appalti. Abbiamo appalti che non riescono, questa incapacità di spendere i soldi, e restano fermi gli appalti e non si riesce a sbloccarli. Sono cose che io non voglio dare tutte le colpe, per l'amor di Dio, perché sicuramente dobbiamo farci anche un esame di coscienza, forse non riusciamo a farci capire bene anche noi, probabilmente non riusciamo a insistere più di tanto, ma però mi sembra che fino adesso, poi oltretutto lo ha detto anche, se non sbaglio, l'ha detto anche recentemente Cantone, mi sembra che addirittura, mi sembra che abbia fatto un passo indietro, finalmente se ne è accorto che forse tutte le colpe non sono quelle del subappalto, che tutto, che non c'entra niente, ma però sono anche forse delle pastoie burocratiche e soprattutto dagli enti locali, di questa incapacità che hanno che hanno di semplificare le cose. E questo diciamo, per quello che riguarda il mio sogno, ripeto, anche perché diventa quasi un problema deontologico per chi fa informazione, cioè rischiamo di diventare cassa di risonanza del governo, dell'esecutivo, e non riuscire a verificare se poi questi soldi vengono effettivamente, l'assegno venga effettivamente staccato. Dopo il meteo e la pubblicità, invece, Campana, vorrei capire altri elementi del vostro settore, perché oggi avete registrato una crescita, o previsto per meglio dire, una crescita degli investimenti nel 2017 dello 0,2%, che è veramente niente, briciole. Però in realtà prevedete un calo dell'1,5% per gli investimenti in nuove abitazioni, un aumento dello 0,2% in opere pubbliche e dello 0,5% in riqualificazione. Vorrei che lei ci commentasse questi dati dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS WhatsApp. Focus Economia. Allora, Presidente Campana, i dati sulle costruzioni, lo 0,2 l'ha detto lei oggi, insomma, è un aumento trascurabile, lo 0,2%. Vediamo, muoversi qualcosa in più sulla riqualificazione, e invece il calo negli investimenti che voi avete previsto come calo degli investimenti in nuove abitazioni è dell'1,5%. Sì, ma su quanto riguarda il calo delle nuove abitazioni, questo era anche previsto, prevedibile, anche perché oggi parliamo, noi è già da parecchio che diciamo che era ora di finire di costruire, di occupare nuovo spazio, ma riutilizziamo invece lo spazio che abbiamo. Abbiamo ancora il 70% delle costruzioni che sono obsolete, costruite con il primo dopoguerra, quindi è giusto rivolgersi a quel tipo di costruzione e anche per rivalutare il nostro patrimonio edilizio, che purtroppo questo spesso lo si dimentica. Ecco, però anche qui, allora, per avere le autorizzazioni, lei pensi che sì, è vero che c'è lo sportello unico, però in parecchi territoriali non funziona o funziona quasi niente, perché devo passare prima di tutto commissione urbanistica, commissione edilizia, commissione paesaggistica, poi arriva la sovrintendenza che spesso non va d'accordo con la commissione paesaggistica e neanche con la commissione urbanistica. E quindi noi restiamo al palo. Uno che ha fatto un investimento mi si dice devi ristrutturare, benissimo, noi loro ci rivolgiamo giustamente alle ristrutturazioni, perché non bisogna consumare solo pubblico, però non puoi demolire e ricostruire perché il fabbricato c'ha più di 60 anni. Insomma, noi ci scontriamo con queste realtà che purtroppo ostacolano il nostro lavoro. Se poi dopo vediamo i dati che mi dicono ma le compravendite sono ripartite, sì, sono ripartite le compravendite fra privati, sono ripartite le aste giudiziarie, e questo non è un bene, perché parliamo di fallimenti, quindi non è questo il mercato, anche perché, se me lo consente, oggi il privato è facilitato rispetto all'impresa quando vende. Il privato, lei sa, le compravendite sono il 2% di tasse di registro per quanto riguarda la prima casa, il 9% per quanto riguarda la seconda casa, e inoltre denuncia i valori catastali. Noi invece dobbiamo denunciare il valore reale di compravendita, quindi cioè siamo soggetti IVA, e quindi dobbiamo scontrarci anche contro questa realtà. Devo peraltro dire che il governo, dopo le nostre insistenze, ha ovviato un po' a questa disparità, perché anche noi oggi possiamo, fino alla fine dell'anno, speriamo che se lo rinnovino, oggi possiamo, uno che compra in classe A o classe B, quindi da un costruttore, può scalare il 50% in 10 anni dall'IRPEF, quindi un po' ha rimediato a questa disparità, però certamente che le difficoltà le incontriamo tuttora. Senta, Presidente Campana, un'ultima domanda: voi avete anche fatto delle proposte per il governo in vista della legge di bilancio, la finanziaria, come si chiama adesso, legge di bilancio del 2018, avete chiesto la proroga fino al 2020 delle detrazioni per l'acquisto di abitazioni in classe energetica. Esattamente, prego. Esattamente. Abbiamo chiesto di rinnovarci il famoso 50% per quanto riguarda le ristrutturazioni, fino a un massimo di 96.000 euro. il famoso 65% per quanto riguarda l'adeguamento energetico, sempre con un massimo di 96.000 euro. Abbiamo chiesto ovviamente, poi c'è stato questo per quanto riguarda i bonus sismici, anche questo c'è stato concesso fino al 2000, se non sbaglio, 2020. E quindi noi abbiamo richiesto tutte queste facilitazioni, queste agevolazioni per chi acquista casa da noi o per chi ristruttura case per conto terzi, ovviamente. Eh sì, e appunto anche l'applicazione fino al 2021 delle imposte di registro, ipotecare e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. L'ultima notizia, ma me la suggeriscono molto gli ascoltatori chiaramente, l'andamento del settore immobiliare residenziale invece sta dando, perché abbiamo visto segnali contrastanti negli ultimi mesi. No, quello che ho detto è il privato e le compravendite private che si muovono purtroppo. Le compravendite delle imprese sono ancora in stallo o stanno andando molto molto lentamente. Un qualcosina sembra muoversi, perché lei sa che noi siamo stagionali, adesso tutti pensano alle ferie, vedremo in settembre, e qualcosa abbiamo visto verso giugno, però poi spento subito velocemente, speriamo ancora nel settembre. Allora, grazie intanto in bocca al lupo a lei, ma soprattutto alle 20.000 imprese associate all'ANCE, imprese dell'edilizia. Ripeto, che mi sta scrivendo, più chiaro di così, i dati non sono buoni, lo 0,2 di crescita, ripeto, è un prefisso telefonico, non vuol dire nulla, e tra l'altro gli investimenti, contrariamente a quello che si continua a dire, gli investimenti non stanno crescendo, anche qui crescono in maniera molto molto risibile. L'aumento delle opere pubbliche, degli investimenti in opere pubbliche è dello 0,2%, sotto anche quelle delle opere per riqualificazione. Quindi questo è il dato di fatto. Che poi si giochi tra il differente tempismo, tra quando fai l'annuncio che spenderemo soldi, quando i soldi li spendi e nel frattempo ci giochi per motivi di finanza pubblica, questo l'abbiamo capito, ma non è da paese serio. Grazie di nuovo al presidente dell'ANCE Giuliano Campana, e adesso andiamo verso la borsa. Borse che oggi vogliono dire soprattutto i nuovi record di Wall Street. Domani c'è molta attesa per Mario Draghi, riunione attesa per capire non tanto sui tassi di interesse quanto soprattutto sul quantitative easing, sullo stampaggio di moneta, di euro. Però oggi la notizia, di nuovo va detto, dopo che l'aveva fatta il Dow Jones la scorsa settimana, la fa Wall Street su Nasdaq e Standard & Poor's. Stanno arrivando le trimestrali, come dicevamo in apertura, due terzi di quelle pubblicate in questi giorni sono più positive e anche quindi sostanzialmente migliori rispetto alle attese, e da lì la borsa si muove. Nello specifico il Dow Jones fa più 0,15% in questo momento, lo Standard & Poor's più 0,33%. Le altre borse europee invece, Parigi più 0,80%, Francoforte più 0,20, Londra più 0,40, Milano più 0,60%. Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Paolo, insomma, Wall Street viaggia sulle sue trimestrali. Mi sembra che le borse europee si siano concentrate maggiormente su Draghi. Sì, sicuramente, infatti per gran parte della seduta i listini sono rimasti veramente poco mossi attorno alla parità, e hanno accelerato un po' soltanto nel pomeriggio in scia ai nuovi record di Wall Street. La prudenza rimane comunque il principale elemento, e si guarda appunto a domani per capire se ci saranno indicazioni più precise sul cosiddetto tapering, cioè quindi l'uscita dal quantitative easing della BCE. Allora, capire i tempi soprattutto di questa uscita. Poi qualcosa si è mosso e lo commentiamo invece dopo il traffico, nel senso che Ferrari ha fatto più 3,40, Steam Microelectronics più 3%, Terna più 2, Luxottica più 1,80, Snam più 1,60, Exor più 1,5, come Atlantia, Banca Generali e Fiat Chrysler più 1,30. Fronte opposto invece Saipem meno 1,40, Poste meno 1,20, Buzzi meno 1, Mediaset meno 0, 70%. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sul traffico. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta per commentare la borsa. Allora, Paolo Paronetto, andiamo con i titoli che più si sono mossi. Partiamo appunto da Ferrari da un lato ed ST Microelectronics dall'altro, e anche ST Microelectronics. Invece deboli altri titoli di Atlantia, voglio parlare in maniera apposita dopo. Deboli altri titoli Saipem, meno 1,40% soprattutto. Paolo? Sì, per quanto riguarda Ferrari c'è stato oggi un giudizio positivo degli analisti di Mediobanca, che hanno confermato un target, il target price e anche la raccomandazione appunto di acquistare il titolo Ferrari. Al contrario su Saipem, anche qui un giudizio negativo di ieri, che già ieri aveva penalizzato il titolo, da parte di Credit Suisse, che hanno tagliato sia i giudizi che le stime sulla società. Mentre per quanto riguarda ST Microelectronics, diciamo che il tema è più di settore. Il settore tecnologico ha oggi recuperato terreno in tutta Europa, il sottoindice del comparto ha segnato un rialzo del 2,15% dopo i cali invece registrati ieri, e questo è il traino dell'olandese ASML, che ha chiuso il rialzo ad Amsterdam del 6% circa, 5,99 per essere precisi, dopo risultati di bilancio che sono stati superiori alle previsioni degli analisti. Ancora per quello che riguarda altri titoli, ripeto, di Abertis, Autostrade, Atlantia, come si chiamano? Voglio parlare fra un attimo, i titoli della galassia Gavio, c'era il piano industriale e obiettivi ritenuti anche superiori alle attese, no? Oggi hanno ripresentati i piani industriali al 2021 di SIAS e ASTM. Secondo gli analisti, alcuni target soprattutto sui margini e sulla crescita dei dividendi sono stati superiori a quanto erano previsti proprio dagli analisti stessi. Infatti i titoli hanno reagito inizialmente in positivo guadagnando terreno, poi diciamo che si è passati un po' sui realizzi o comunque sulla prudenza dopo l'iniziale euforia, e alla fine SIAS ha chiuso esattamente invariata rispetto ai prezzi di ieri, mentre STM ha chiuso addirittura in calo dell'1,19%. Comunque sono stati tra i titoli più sotto l'attenzione degli operatori oggi, nella seduta di oggi. Allora, due titoli minori, però ogni tanto vale la pena parlarne. Uno perché è una debuttante, la matricola Glenalta. Mi devi spiegare cos'è una Special Purpose Acquisition Company. E l'altro invece è MailUp, perché fa marketing via SMS, insomma ha fatto il più 14 quasi per cento oggi in borsa. Sì, esattamente, Glenalta è una SPAC, come hai detto tu, cioè di fatto un veicolo di liquidità che viene quotato in borsa con l'obiettivo di fare un'acquisizione e poi diffondersi di fatto con la società acquisita, che diviene quotata attraverso questa operazione. È un tipo di società che sta avendo molto successo, anche molte quotazioni in borsa. Ricordiamo che la quotazione in borsa di Avio di recente è arrivata proprio attraverso l'acquisizione da parte di una SPAC. Oggi l'esordio di Glenalta è stato positivo sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, chiuso in rialzo del 4,1%. Per quanto riguarda MailUp invece è stato oggi appunto uno dei titoli migliori, con un rialzo del 13,78% grazie ai conti della controllata Agile Telecom, che è appunto una società che si occupa di marketing delle aziende via SMS. I conti hanno visto una crescita del fatturato del primo semestre del 25%, superiore al budget dell'azienda, e quindi gli investitori hanno salutato positivamente questi risultati. Allora, tra i migliori e peggiori in assoluto cito anche Enertronica meno 9,55, Ukedos meno 5,13 e poi Aquatos, ma un nome normale oggi, Aquatos meno 4,90%, fronte opposto Poligrafici Printing più 17,30, Novare più 16, appunto MailUp, Biancamano più 13,14%. Pochissimo mossi gli altri titoli, posso solo citare, oltre a Ferrari, ST Microelectronics, Eterna più 2%, Luxottica più 1,70%, Snam più 1,60%, Exol più 1,5% come Atlantia, e appunto Banca Generali più 1,30%. Caso invece tutto a sé e a sé stante, quello di Atlantia. Ricorderete, abbiamo parlato molte volte dell'offerta che sembrava ormai assolutamente scontata, non dico addirittura d'arrivo, ma tutto in discesa, e invece no, l'offerta dell'ex di Atlantia, quindi l'ex Autostrade per l'Italia, per l'equivalente spagnolo che si chiama Abertis, beh, è spuntato in effetti un terzo incomodo. L'operatore aeroportuale spagnolo Aena e anche lo Stato spagnolo sta un po' frenando. Laura Galvagni del Sole 24 Ore, buonasera Laura. Buonasera a voi. Quindi il terzo incomodo c'è, non si tratta di un amante, ma si tratta dell'operatore aeroportuale spagnolo Aena. Che cosa ha messo Aena e soprattutto cosa sta facendo lo Stato spagnolo? Aena ha ammesso sostanzialmente di aver valutato seriamente, sia industrialmente che finanziariamente, l'opportunità di lanciare una controfferta su Abertis. L'ha valutata, l'ha considerata, il consiglio d'amministrazione era propenso a muovere sul gruppo autostradale spagnolo, è stato bloccato però dallo Stato iberico, e questo perché Aena, la concessionaria aeroportuale, è controllata attraverso una holding da Enaire, che è più o meno titolare del 50% del capitale sociale di Aena, e questa Enaire a sua volta controllata dallo Stato. In mattinata Enaire... Cioè, fammi capire, scusami, cioè Aena ammette, esatto, che è interessata, sì, e ha discusso nel Consiglio di Amministrazione la possibilità, sì, di lanciare un'offerta pubblica di acquisto. Il suo azionista di riferimento, che è lo Stato spagnolo, l'ha bloccata. La blocca perché dice, attenzione... Un po' strano come atteggiamento, insomma, sarebbe come se da noi una partecipata importante si muovesse e poi venisse bloccata dal tesoro stesso, che è a sua volta, che però è l'azionista di riferimento, penso a Enel o Eni. O è un po' complesso, cioè probabilmente è abbastanza difficile da comprendere come sia stato possibile che una controllata statale si sia mossa in autonomia rispetto a quelle che erano rispetto le volontà rispetto al suo azionista di riferimento, esatto, rispetto al suo azionista di riferimento, però pare che sia andata così, nel senso che probabilmente magari su mandato dello stesso Stato è in studiato, ecco, la cosa, lì poi una volta arrivare. Che hanno visto i numeri si sono resi conto che la portata dell'operazione era troppo rilevante, troppo importante perché Enel la potesse sostenere, perché come ha poi specificato Enel nel suo comunicato, loro avrebbero dovuto chiedere preventivamente il via libera del Consiglio dei Ministri, perché l'operazione superava il 25%, il 25% degli asset che Enel ha in portafoglio, e quindi avrebbe diluito fortemente lo Stato, che a quel punto l'unica cosa che avrebbe potuto fare sarebbe stato quella di sottoscrivere un aumento di capitale. Evidentemente lo Stato ha detto no, non mi va bene né diluirmi né tantomeno ho la possibilità di sottoscrivere un aumento, e quindi ha frenato. No, per carità, delle due l'una, o veramente i vertici dell'operatore aeroportuale spagnolo Aena partecipato, ripeto, è l'azionista di maggioranza dello Stato spagnolo, si sono mossi in maniera completamente dissociata, senza neanche consultare l'azionista, che poi è quello che sta... non dico trattando, ma chiaramente poi ha l'ente pubblico vincolante e quant'altro, oppure la seconda possibilità, Laura, è che in realtà Aena abbia funzionato come braccio, diciamo, come mano sinistra dello Stato spagnolo, poi come dicevi tu si sono accorti che l'operazione era troppo onerosa e li hanno bloccati, ma diciamo che fosse tutto concordato prima. Potrebbe anche essere banalmente un segnale mandato dallo Stato spagnolo ad Atlantia per dire noi ci abbiamo provato è perché sostanzialmente le condizioni ad Atlantia non sono quelle che ci aspettavamo. Può essere anche una sorta di un tentativo per dire guarda che ok, noi l'abbiamo studiata, poi ci siamo resi conto che non riusciamo a farla, però come siamo interessati noi potrebbero essere interessati altri. Potrebbe anche essere. Ecco, Laura, un'ultima cosa: le date adesso per avere una qualche certezza sull'operazione che creerà un colosso autostradale a livello europeo? A Allora, per quanto riguarda l'offerta di Atlanti, adesso a inizio agosto c'è l'assemblea straordinaria della società che dovrà varare l'aumento di capitale funzionale a pagare la parte in azioni della famosa offerta su Abertis, che è mista cassa e mista titoli. Poi i temi più importanti saranno a settembre, perché si possa procedere sono necessarie le autorizzazioni, soprattutto quella della Consob spagnola, che dovrebbe arrivare a inizio settembre, poi a seguire tutte le altre autorizzazioni. Se dovessero arrivare comunque a autunno inoltrato, a quel punto si potrebbe ipotizzare concretamente il lancio dell'offerta chiusura. Grazie anche Laura Galvagni, andiamo sul GR24 e poi gli altri temi di questa puntata. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e adesso andiamo ai temi legati al nostro mezzogiorno. Perché? Perché oggi è stato presentato da Confindustria e da SRM, che è il centro studi del gruppo Intesa San Paolo, il check up mezzogiorno dedicato all'economia e alla società del nostro sud. Allora, partiamo dalle buone notizie, perché continuano ad esserci indicatori di una risalita del mezzogiorno trainata soprattutto dalle imprese. Tra l'altro nel 2015 le regioni del sud sono cresciute più della media nazionale. So già l'obiezione, partivano da livelli più bassi, è vero, però sono cresciute un po' di più. Questo è confermato anche dall'indice sintetico dell'economia meridionale, che mostra tutti gli indicatori in crescita. Il PIL più 0,9% nel 2016 e ha fatto più 1 nel 2015. È l'industria in senso stretto che sta trainando quel poco di ripresa che si vede nel mezzogiorno, e tra l'altro è cresciuto il valore aggiunto dell'industria del 3,4%. Dicevo, questi dati positivi. Poi ci sono 4 indicatori su 5 che sono invece tutti ancora sotto i livelli pre-crisi. L'unico che è tornato ai livelli pre-crisi è l'export. Quanto alla natalità imprenditoriale, il numero delle imprese attive cresce di 8.000 unità, mentre è calata nel resto del paese. Prosegue l'aumento delle società di capitali, 16.000 in più, quindi 8.000 imprese attive in più, 16.000 società di capitali. E poi buone notizie arrivano dal numero di startup innovative, più 29%, un dato che è anche più alto rispetto a quello del resto del paese, del centro nord. Positivi anche i dati sulle imprese in rete, 1.000 in più in soli 6 mesi, e anche in questo caso le imprese che si mettono in rete hanno un tasso di crescita più alto rispetto a quello del centro nord. Qui le notizie e i segnali positivi. Poi c'è invece quello che non va, e lo ha citato in maniera molto chiara il presidente Confindustria Vincenzo Boccia nel suo intervento. Allora, abbiamo una disoccupazione giovanile che è doppia rispetto al centro nord, anche se un po' cresciuta l'occupazione, ma con un ritmo più lento negli ultimi mesi. Dicevo, disoccupazione media è al 21%. La disoccupazione giovanile è al 56%, siamo sia su quella media che su quella giovanile a livelli doppi rispetto al resto del paese e rispetto alla regione del centro nord. Anche il numero dei NEET, dei giovani che non studiano e non lavorano, resta elevato, sono 1.800.000 al sud, sono praticamente la metà del dato, più della metà del dato nazionale, e di questi 800.000 non hanno nemmeno un titolo di studio, tant'è che il presidente Comunista Boccia ha detto appunto: altro che pensioni, qui bisogna pensare al detonatore del futuro, che rischiano di essere i giovani, soprattutto i giovani del sud. Ascoltiamolo a margine della presentazione al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Emergono dei fattori positivi che sono in linea con quello che accade nel Paese, una riattivazione degli investimenti privati grazie anche a strumenti selettivi previsti nella legge di bilancio, ma c'è un divario che balza agli occhi nel Paese e in particolare al Mezzogiorno, cioè i netti, i cosiddetti giovani senza lavoro, che sono 1.800.000 ragazzi nel Mezzogiorno del Paese, ma riguarda l'Italia. Questo divario va rimosso nei fatti, non solo nelle parole, e parlare di pensioni e non parlare di giovani nei fatti è un grave errore, sia per il futuro del Paese, perché non permette di superare ansietà e assuefazione in Mezzogiorno, sia come idea di certezza del futuro. Noi dobbiamo parlare più di giovani e fare più per i giovani, e le generazioni passate dovrebbero essere molto più generose nei confronti dei giovani del Paese, perché questo ci aiuterebbe a ridurre i divari e a costruire dei progetti di vita per i giovani italiani. Noi speriamo, come Confindustria, che si rimuova, diciamo, una disattenzione verso i giovani italiani per includerli nella società e nel mondo del lavoro in termini strutturali, e auspichiamo che questo sia fatto nell'interesse del Paese e nell'interesse dell'Europa. E sempre secondo il presidente di Confindustria, che ha anche detto quella frase che citavamo in apertura, ho la sensazione che siamo alla ricreazione, vedo un clima da ricreazione, abbiamo svoltato, siamo usciti dall'emergenza. In realtà, dice Boccia, siamo ancora in una fase di transizione, non ci sono tesoretti da dividere e ci sono ancora sacrifici da fare per dare certezza al futuro. E poi gli investimenti, così ci ricolleghiamo al tema di apertura all'Osservatorio del Lance, gli investimenti in particolar modo al sud. C'è bisogno di investimenti pubblici, perché la nostra chiave di lettura è che il Paese, sia politicamente sia geograficamente, non è Sud Europa ma è centro tra Europa e Mediterraneo. I traffici dal canale di Suez stanno aumentando, l'Italia potrebbe diventare una grande piattaforma industriale e logistica. Questo significa investimenti privati, ma significa anche attivare investimenti pubblici e quindi, oltre a dichiararli, renderli operativi, semplificarli nell'interesse del Paese. Le due cose vanno insieme per costruire una grande visione del Paese di medio termine, che possa far diventare l'Italia non solo una questione geopolitica centrale tra Europa e Mediterraneo, ma geoeconomica. E questa è la sfida del Paese che dobbiamo cogliere tutti insieme. E poi arriveremo anche al rapporto Svimez, dove si segnala un utilizzo più basso della media nazionale proprio degli incentivi del Piano Nazionale Industria 4.0. Vorrei però prima di tutto ringraziare per averci aggiunto in collegamento il vicepresidente di Confindustria, che la delega alle politiche regionali, Stefan Pan. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, ancora un minuto di pazienza al traffico, poi vorrei capire, perché letta così, lo ricordava anche Boccia, i segnali, qualche segnale positivo, anzi più di un segnale positivo, quanto non fosse altro che sull'incremento sui tassi di crescita, è sempre una percentuale, non è un valore assoluto, ma sono più significativi che al nord. Si ha la sensazione però, Pan, che sia veramente una fotografia a macchia di leopardo, in cui non si riesce ancora a dare un colore definitivo. Vorrei la sua analisi dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Pour me a taste of something good. Allora, presidente Pan, partiamo insomma da questa difficoltà nel dare un colore. Allora, sappiamo tutti che la ripresa in atto è una ripresa modesta, ancora insufficiente, con tassi tali che se va avanti così torneremo ai livelli pre-crisi, pre-2008, nel 2022-2023. Quindi questo vale per tutto il Paese. Però diciamo, nel centro-nord noi ormai abbiamo detto più volte, e lì il colore si sta vedendo abbastanza nettamente, che ci sono decine di migliaia di imprese che si sono legate ai mercati esteri come quota importante dei loro fatturati e stanno andando bene, in alcuni casi anche sempre meglio. Poi c'è una parte di imprese invece che lavora molto o troppo per alcuni versi sul mercato domestico e soffre ancora moltissimo. Poi c'è il mondo delle costruzioni, di cui abbiamo parlato poco fa. Se lei dovesse dare, insomma, il colore al mondo delle imprese del sud, che colore darebbe? Perché la fotografia appare meno netta, meno nitida. Noi siamo quelli che danno colore. il volo delle imprese e di dare colore. Ci sono delle imprese che hanno un colore molto forte, molto vivace, e che dà segnali, che si, un colore che si vede da lontano, e altre imprese che non l'hanno ancora fatto. Ma il fatto che ci sono delle imprese che riescono a essere degli apripista, dei campioni del mondo nel loro settore, pur partendo dal mezzogiorno, fa vedere che è un'operazione possibile. Dobbiamo e possiamo dare colore a tutte le imprese. È una missione possibile, ci sono degli stereotipi che dicono il mezzogiorno non si potrà mai per una questione culturale. Io sono fautore dell'altra storia, quella che dà colore, che dice che è possibile. I segnali, le piantine che emergono sono ancora piccole, questo è vero, dobbiamo recuperare molto dalla crisi, ci mancano dai tempi della crisi 400.000 posti di lavoro, però abbiamo visto che dove ci sono le misure che funzionano, queste producono quell'humus che permette la crescita. Abbiamo creato negli ultimi 5 mesi 55.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, che sono quei posti che danno fiducia, che danno colore al futuro dei giovani, che dobbiamo, a cui dobbiamo dare un ruolo molto più forte. Non possiamo permetterci di avere una bomba d'orologeria con 1 milione, l'ha citato prima il dato, 1.800.000 giovani NEET che non lavorano, non studiano, non sono in formazione, e questo lavoro lo possono fare le imprese. Le imprese sono chiamate e possono farlo, sono un luogo di apertura, di futuro concreto ai giovani, che dà speranza alle famiglie, che dà una speranza sostenibile, e questo è il ruolo sociale che abbiamo e che spingiamo come Confindustria. Questo per quello che riguarda, diciamo, il colore che si dà a questa ripresa. Mi sembra di vedere però che natalità imprenditoriale, export danno segnali di vitalità. Quello che lascia un po' più sorpresi è notare come nel piano nazionale industria 4.0, quello del super barra iperammortamento, la quota di imprese meridionali che hanno avuto l'accesso poi alle agevolazioni sono solo al 7% di tutte le agevolazioni stimate nel 2017. In valore assoluto le agevolazioni erogate alle imprese del sud dovrebbero attestarsi intorno ai 650 milioni di euro contro gli 8 miliardi di e mezzo nel centro nord. Siccome queste sono agevolazioni dal 140 al 240% per chi digitalizza la sua impresa, cioè investe per ammodernare, come si spiega un dato così diverso tra gli 8 miliardi e 600 milioni di agevolazioni ottenute dal centro nord e i soli 650 milioni? Tipologia di impresa, dimensione di impresa, o delle volte anche non aver colto l'opportunità che veniva offerta? È una cultura che bisogna costruire. Una cultura che dobbiamo costruire in fretta, dobbiamo velocizzare, ma ci sono i presupposti per farlo. Proprio qualche giorno fa è nato il primo Digital Innovation Hub proprio in Calabria, che è una struttura che aiuta le imprese a capire che cosa devono fare e con chi mettersi in rete per diventare imprese più intelligenti, per essere più digitali, per capire come cambiare i processi produttivi che ti mettono in grado di ti permettono di crescere con questa dinamica 4.0, con questa rivoluzione di impresa che cambia tutto, che permette anche alle piccole imprese di lavorare e uscire dai mercati, che non ti limitano più al posto dove sei, dove è l'impresa, ma rende processi, tutti i processi più intelligenti. Questa è un'operazione che si fa assieme alle scuole, assieme alle università, creando una rete più forte, un'operazione culturale che bisogna costruire giorno per giorno, e questo è uno dei grandi compiti di Confindustria che portiamo avanti a livello regionale. Ogni regione sta creando questi hubs, questi centri che aiutano le imprese a diventare più veloci. Il nord è partito prima, ma ricordo che solo 5-6 anni fa anche al nord non si parlava di 4.0, adesso diventa prioritario. In Germania 6-7 anni fa non si parlava di 4.0, adesso lì è prioritario, e questa dinamica la raccontiamo, la spieghiamo, e vediamo dove si fa, c'è un grande coinvolgimento, prima non si capisce, poi si entra in questo ordine di idee. In quel momento che poi alcuni partono, gli altri seguono e si crea una spinta molto forte. Ok, questo è chiaro che c'è un effetto, diciamo, volano nei primi, nella pattuglia che parte per prima. Tra l'altro, per quanto riguarda il credito d'imposta sulle spese incrementali, la quota di accesso alle spese incrementali in ricerca e sviluppo, la quota di accesso per le imprese del Sud è pari al 10% del totale e delle agevolazioni, anche qui poco rispetto ai 3 miliardi assorbiti dal centro-nord. Pure sulla nuova Sabatini, agevolazioni per i beni strumentali, il Mezzogiorno ha assorbito nel periodo, diciamo, 2016 il 10% delle domande e quindi 56 milioni di euro contro i 500 milioni di euro destinati al centro-nord. Lei diceva che, insomma, che è un problema di far partire anche una pattuglia di imprese, dare dei segnali su questo. Che cosa manca secondo lei al tessuto complessivo delle imprese del Sud, al di là dei temi di legalità, sappiamo benissimo, e di infrastrutture, perché non è un dettaglio e ci mancherebbe. Però c'è forse una minor consapevolezza che buona parte della sfida tra giochi sull'export e da lì magari un minor ricorso alle iniziative di carattere governativo che dovrebbero puntare a renti più competitivo nella digitalizzazione, non solo, ma proprio verso quei mercati esteri? Sono cose concatenate. L'export, per poter esportare, devi fare innovazione, devi fare ricerca, devi metterti in rete con cerchi di ricerca e con università. Quindi ti metti sei capace di affrontare mercati più complessi. Per far questo devi investire, e il credito d'imposta che è stato lanciato per il Sud dimostra che nel momento che questo credito d'imposta viene potenziato ed è stato fatto 2 mesi fa, questa volontà di investire cresce. Ci sono c'è stato un boom di richieste per accedere a questo credito d'imposta. In solo 2 mesi sono state attivate richieste per 900 milioni che generano un volume di investimenti di 1,9 miliardi, e da qui si vede che quando un messaggio è chiaro e dove c'è la fiducia, le aziende anche del Sud sono pronte a investire, hanno la fiducia e partono in quarta, o in quinta bisognerebbe dire. E si vede l'effetto immediato, e questa è una misura che è semplice, che non è burocratica, che funziona in automatico, che premia tutti quelli che lavorano bene, senza fare distinzioni per categoria, quindi è un elemento che fa forza chi investe, e ci sono, vediamo, tante imprese che lo fanno, e le richieste sono veramente state numerosissime, e le stiamo monitorando con grande attenzione, perché questo è un indicatore di grandissima vitalità aziendale. Ecco, mi dica un'ultima cosa, Presidente Pan, ma una critica, tra virgolette, costruttiva, che lei può rivolgere ai suoi colleghi del nostro Mezzogiorno. Cioè, abbiamo detto appunto alcune difficoltà oggettive, la necessità di avere, anche come è avvenuto nel centro-nord, delle multinazionali tascabili, delle imprese che diano la guida e quant'altro. Ma una critica che lei, critica insomma costruttiva, che lei si sente di rivolgere ai colleghi del Mezzogiorno, qual è? Più che critica, è un'infusione di coraggio. Provengo da un territorio, sono di Bolzano, Alto Tesino, dove siamo riusciti ad abbattere la disoccupazione, abbiamo la disoccupazione, il tasso di disoccupazione più basso del territorio nazionale, ma siamo partiti anche noi da una terra povera che ha investito tantissimo sulla formazione, sul rapporto tra scuola e impresa, l'impresa che non è solo luogo di lavoro ma luogo di formazione, e quindi aiuta e fa entrare i giovani subito in azienda, e questo è un discorso che in un pezzo d'Italia funziona. Se funziona in un pezzo d'Italia può funzionare benissimo in altri territori. Il lavoro che stiamo facendo a livello di Confindustria, di interscambio, della buona scuola, alternanza scuola lavoro, che di per sé è la doppia formazione, funziona anche al Sud, e l'incoraggiamento che do è che ci sono delle eccellenze straordinarie nel meridione che riescono a farlo e che sono degli apripista che bisogna e si può seguire. Mm-hmm. Non accetto le critiche che parlano del costante immobilismo. Come imprenditori, come imprenditrici, siamo abituati a sfidare le cose avverse, e questo è quello che facciamo perché abbiamo questa grande responsabilità di far vedere che le imprese tutte possono partire. Anche allora, in bocca al lupo, in questo caso in primo luogo quelle del nostro Mezzogiorno. Grazie al vicepresidente di Confindustria per le politiche regionali Stefano Pan. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.